quando fare canali alti. Esatto, anche lì a me sale un pochettino, però niente di che, sale a 1,2, 1,3, capito? Non è, è normale quello. Sì, sì, è normale. È normale perché se tu l'attari da una parte non puoi tagliare, a meno che abbi larga banda, allora è tipo, vedi, la Game Master, e tu dove andavi andavi era sempre 1,1 al massimo. Non saliva più di 1,1, ma proprio appena appena si muoveva. Game Master da quel punto di vista è comoda, perché praticamente è pretarata, tu non devi fare niente, la piazzi, la metti e mi sa che quella va da 20, da 25 a 30 MHz come larghezza di banda, se non sbaglio. Sì, sì, sì. E quella praticamente è tarata su tutti i canali. Sì, lo so, è tanto chi lavora il cavo che c'è interno, non è l'antenna esterna, l'antenna esterna serve solo per tenere dritto il filo, il cavo che c'è dentro, tutto lì. Tu potresti metterla benissimo su un pezzo di coso all'esterno, su una canna da pesca, per dire, messa all'esterno il cavo va bene lo stesso. E il problema è che il materiale lascia desiderare. Io l'ho voluta provare perché era un'antenna nuova, tutti ne parlavano bene, qualcuno ha detto che lì si era spezzata, ma ho detto magari quei due o tre che lì si è spezzata non l'avevano piazzata bene, l'ho provato anch'io. E niente, a me mi si è spezzata due volte, non una volta solo, una volta l'ho aggiustata, l'ho entrata appena appena più dentro, ci ho messo tre fascette in acciaio e non si è più mossa da lì, si è andata la parte superiore. Ho capito. Beh, sì, sono sottoposte a un grande sforzo quando tira vento, capito? E flettendo da una parte e dall'altra è ovvio che cede appena appena qualche fascetta, se non sono quelle in acciaio, capito? Come ti cede la fascetta poi si spacca tutto, quindi devi stare a portarla giù, a riassemblarla, a rifare le parti, serraggi di nuovo, capito? Una scocciatura in effetti. No, io l'ho regalata a un amico, si è buscato gli elementi che si erano rotti da un altro amico che aveva problemi di coso, di bobina, non so cosa gli sia successo, e quindi gli ha smontato i pezzi della messeria e ce li ha originali, proprio i pezzi che si sono rotti li ha rimessi originali da un'altra Game Master. E adesso la dovrà piazzare. Io mi sono rotto le scatole due volte, cioè non posso stare sempre salendo sul tetto, alla fine poi io sono in un condominio, alla fine poi ti rompono le scatole, io ho la chiave per miracolo, perché nessuno ne ha di chiave del tetto. Io lo stesso, io ce l'ho per quel motivo, perché faccio alcune cose per il condominio, quindi ho tutte le chiavi, però in effetti meglio stare coi piedi dentro una scarpa e non stare lì a mettere tante cose, magari l'hai fatto con discrezione, la piazzi, non dici niente. Io ho cambiato diverse antenne, tutte le volte ho fatto questi lavori in orari tipo la domenica dopo pranzo, capito, che la gente magari pensa ad uscire oppure a casa e sono tutti impegnati a tavola a mangiare, tanto ti metti l'impegno, ti prepari tutto prima. Io l'antenna che mi ha dato Claudio mi ho preparato tutto, era già bella e pronta, però l'ho portata su, ho cambiato il cavo e tutto quanto, in giro di un'oretta ho fatto tutto e sono risceso. Tutto da solo ti è fatto? Tutto da solo, nonostante fosse bella lunga, no, sono riuscito a farla scorrere sul tubo, no, sul palo di sostegno, l'ho infilata lì, capito? Ho abbassato tutto e poi pian piano ho alzato, capito? Però è già bella stabile, spero che ci duri a lungo. Sì, dovrebbe durare, è un'antenna fatta bene. Vabbè, l'unica esperienza brutta che ho avuto è con la Game Master, poi tutte le altre antenne che ho avuto, la Mantova, la Grand Prix, erano tutte buone come antenne, anche la Grand Prix arrivavo bene alla chiave Alghero, con la Grand Prix quando abitavo a Sacro Cuore arrivavo forte anche Alghero. Capito. Boh Gianni, io purtroppo devo andare, ci sentiamo alle prossimine perché gli impegni di famiglia mi chiamano. Saluto chi è in ascolto, Giovanni se c'è ancora, Franco, Natalino se è in ascolto, ci sentiamo alle prossimine. Ciao. Ciao Carlo, dai, buona carica, quando la fai ci sentiamo. Buona serata, dai, buona continuazione. quanti c'è rimasto qualcuno? Ci sono ancora. E fuma fuma che ti fa zibè. Ma la sigaretta la più rotta, dice. Ah, ecco, per digerire la birra. Avanti, Cristo. Beh, io sono tutto alcolico, non mi vuoi più deciso. Sei tutto buco. Sono pronto, sono sotto casa tua quasi, sono sotto casa tua. Andare a... Se te faccio la finestra, fa tu mi vedi anche. No, non la faccio perché sono bucato e non mando a prendere freddo adesso. Se no poi mi tocca buttarti la qua calda. Così mi lavi la macchina anche. Se ti riscaldi. Scappa grappa. Avanti Giovanni, fuma da dire che sei sigaretta. E tu la spesa non te l'hai ancora fatta? Io non ti ho richiamato perché mi hai detto che stavi tornando a fare la spesa, scusa. Cosa? La palazzina che hai. La palazzina? È alta abbastanza, non c'è bisogno di tuboli. Posso anche andare da qua direttamente? Che magari. Ti puoi parcheggiare anche davanti all'entrata, mi sei bisogno di gol. Io sono qua. Se vuole entrare qualcuno, ce l'ascolto. Dai, ho chiuso la sedia, poi entriamo, va. Che bagata. Chi è? Giovanni, ho finito di fumarti la sigaretta. Ah, te le fai tu. Ma le cane! Uno e tre, preso il microfono, uno e tre. C'è qualcuno? Cambio? Sì, stavamo parlando, ciao Eugenio. Ciao già, ma se adesso sei a casa. Dimmi un po' la metà del tuo microfono, grazie. Sta andando bene. Ma siete amplificato, bello forte. Ma adesso non è molto amplificato, però va bene. Prova a aumentarlo. 1, 2, 3, sta aumentando a manetta. Faccio a manetta. Già aumenta, Eugenio. Non ti preoccupare, già aumenta. Comunque va bene, si sente che è forte. Sì. Però bisognerà verniciarlo sicuramente. Allora come vuoi? La posizione. Se non vuoi. Aspetta a te, non conosco perché ti diciamo. È originale, non lo conosco. Ma me l'ho preso da internet. Ti ho fatto un affare da un amico. Ti hanno messo l'appartamento, non ho capito lui. Ho detto che non l'ho preso da internet, me l'ha dato un amico, ho fatto un affare. Ah, ecco. Nuovo, sono voglio, nuovo, nuovo. Va bene, riparo tra un po', ciao, grazie, a tra un po'. Allora, Denise, allora come stai qui, Eugenio? Però sì. Sempre Ardillo? Cappagata. Sì. No, perché non sentivo più a nessuno? Tutti spariti sono. Aspetta un secondo, perché c'è uno splatter che ha passato il macchinario. Prova a parlare così. Forte e chiaro, va. Perché prima c'erano degli splatter, non riuscivo a capirti. Che hanno la mania di punire così a manettoni. Ma parlare se per un Peloncino, mi ascolti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi ascolti? Se sono bene anche tu adesso. Cosa? No, già vivi bene adesso, vivi molto meglio di prima. Ha voglia. Ehi, con la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola, la cipolla. Sulla radio, sul K. no, non l'ho provato. Se non te l'ho fatto nessuno, adesso non ne ho voglia. Poi domani faccio. Se li posso. No, no, non ho ancora mangiato ancora, però ti ho messo un messo. Chi è che stavo mettendo a portare? La voglia già è stata, lui mi ha preso il culo, se no fuggi. Cioè, adesso era un quarto, Cioè, il livello zero e l'ho portato a un quarto. Claudio si sa regolare bene, non lo so. Vabbè, ma ti ripeto, noi siamo abbastanza vicini. Vorrei sentire Sassari con questo livello di volume, capito? Che ce l'ho proprio a un quarto. Poi posso salire a metà, a un quarto della metà e a manetta. Devo vedere un po' Sassari, se si decidono a entrare invece di ascoltare e basta. E c'è la Gianni. Vabbè, comunque l'MC60 mai si adegua di più perché è proprio Kenwood. Il Kenwood col Kenwood magari ci abbiamo meno, non lo so. Devo sentire Claudio che lo conosce bene sul microfono. Bravo. A volte gli incroci vanno meglio delle ratte, hai ragione. Devo beccare Claudio, ti ripeto. E da un po' non lo sento. Ma non le sento mai lui le radio. Claudio, il tuo pane. Sì, lui ce l'ha sempre acceso, non lo spegne mai. Ce l'ha acceso, vai tranquillo. Mi ho messo un po' intanto con la cena anch'io. Anch'io non lo spengo mai, Mario. Lui è sempre acceso, non lo spengo mai. Io lo lascio sempre acceso. Basso volume a zero, lo lascio sempre acceso. No, se avessi avuto una moglie, non ci avresti neanche provato a mettere niente sul tavolo, fidati. Mi ha fatto allestire la mia, io ho la mia stanza, la stanza radio, c'ho tutto qua, faccio qua, lei non dice niente, non fa, c'entro solo io, pulisco tutto io, e lei non fa niente, lo sa che questa stanza per lei è offline. Va bene Mario, ti lascio, a proposito di donne, mia moglie mi ha chiamato che è pronto. Finalmente, perché non ha fame, un altro poi mangio il microfono. Non ho ancora mangiato stamattina prestissimo, ma sono prestissimo. Va bene, mi ha fatto piacere Mario risentirti, a domani. Ciao domani. Ciao, sempre alle 4 domani, sempre alle 4. Oh mamma, dai, ciao. Ciao Mario, a domani, ci sentiamo domani. Ciao. Chicos, hola, tu è avanti che non stai uscendo. Sei Luca, sì. Guarda che non stai uscendo di radio. Se sei Luca, dai due colpi di portante. Guarda, non stai uscendo di radio. Controllati qualcosa. Sei forte di segnale qua, ma non stai uscendo di radio. Ma eri sei Gianni, per caso.